Euroreportage. Europa-Russia. Affari oltre le sanzioni. Di Laura Bettini. Correva il 3 marzo 2014 quando in una sessione straordinaria del Consiglio Affari Esteri l'Unione Europea decise di considerare la possibilità di intraprendere azioni contro la Russia, accusata di intervenire illecitamente nelle vicende ucraine e minacciare l'integrità territoriale del paese. Azioni che si tradussero il 17 marzo 2014 in una prima serie di misure restrittive nei confronti di 21 funzionari russi e ucraini. Di lì è stato un crescendo di sanzioni europee e contromisure russe che dura tutt'oggi e continuerà probabilmente per tutto il 2017. Una tensione geopolitica che sulle imprese europee e in particolare italiane ha avuto un impatto pesantissimo. Siamo a circa 5 miliardi di euro di esportazioni italiane in meno rispetto al 2013 e un interscambio crollato di quasi il 45%, ha riepilogato poche settimane fa Antonio Fallico, presidente di Banca Intesa Russia e dell'associazione Conoscere Eurasia. Ma se nel primo anno di sanzioni il bagno di sangue era stato per tutti, a fine 2016 l'agenzia ICE di Mosca per l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha rilevato segnali di decisa ripresa. Pierpaolo Celeste ne è il direttore. Questo rimbalzo è dovuto sicuramente a un adattamento da parte delle aziende italiane della situazione del mercato. Perché dobbiamo ricordare che sì, si parla di sanzioni, si parla di controsanzioni, però si ascrive alle sanzioni un significato maggiore di quello che in realtà hanno. Le controsanzioni russe hanno bloccato alcuni tipi di prodotti, non hanno bloccato tutti i prodotti e per fortuna l'Italia ha un ventaglio frastagliatissimo di comparti, quindi noi come agenzia ICE abbiamo cercato di puntare e di consolidare anche la presenza degli altri settori. Diciamo la perdita maggiore che noi registriamo nel periodo gennaio-novembre 2016 sull'analogo periodo del 2015 è quella della meccanica, che poi era il settore più consistente. La meccanica risente nel periodo che ho citato di una diminuzione di quasi il 22%, quindi continua a perdere ed è il comparto che va più sostenuto, anche se poi la nostra posizione di mercato comunque è immediatamente dietro la Germania, alcune volte anche il Giappone, per cui non abbiamo risentito di conquiste di quote da parte di altri paesi. Diciamo che è il paese in generale che acquista meno macchine all'estero, anche perché si cerca di prediligere il prodotto nazionale rispetto al prodotto estero. Importo zamiescenie, sostituzione delle importazioni, è diventata questa la parola d'ordine del governo russo. Bisogna produrre in patria ciò che prima si importava, da soli o con partner disposti a lavorare in Russia. Nel frattempo il mondo è grande e fornitori se ne possono trovare altrove, magari non di pari livello, ma amici. Viene dato molto stimolo, vuoi con benefit addirittura fiscali, vuoi con agevolazioni logistiche, gli imprenditori hanno delle agevolazioni notevoli, gli imprenditori locali. E questo è uno dei motivi per cui, per esempio, per un certo tipo di imprenditoria italiana e di industria italiana, noi cerchiamo di spingere verso degli investimenti locali. Ovviamente senza che questo significhi delocalizzazione, ma significa semplicemente avvicinarsi oggi in questo territorio a 143 milioni di abitanti, quindi servire i propri clienti come si fa in tanti paesi più da vicino. I segnali di miglioramento sono evidenti anche nella ripresa delle vendite di moda e gioielli italiani, questi con un più 30%, nonché di prodotti agroalimentari made in Italy non embargati, quindi principalmente il vino, che hanno segnato un più 8% sul 2015. Un miglioramento del clima che Moody's ha attestato rialzando il rating russo da BA1 negativo a BA1 stabile. Colpiti quindi, ma non affondati dalle sanzioni. Cesare Maria Ragaglini è l'ambasciatore italiano a Mosca. Adesso la recessione in Russia è terminata. Abbiamo avuto questo periodo di crisi che ha portato a una diminuzione del PIL, ma già quest'anno sta iniziando a crescere nuovamente. Le previsioni danno una crescita dallo 0,5 all'1%, anche se c'è una certa unanimità di vedute e di previsione che nel caso in cui i prezzi petroliferi rimanessero stabili o aumentassero, la crescita aumenterebbe ulteriormente. L'economia della Federazione ha resistito molto di più, ha dato un forte segnale di resistenza e di flessibilità e quindi ha inciso meno di quanto ci potessimo aspettare due anni e mezzo fa. Tuttavia, come anche le stesse autorità russe finiscono per ammettere, vi è comunque un forte deficit nell'economia russa perché vi sono dei limiti alla crescita. Innanzitutto la disoccupazione russa è molto bassa, è fra il 5 e il 6%, e quindi non è attraverso una maggiore occupazione che si potrà avere valore aggiunto, e questo valore aggiunto nella crescita del PIL può essere dato soltanto da un incremento della tecnologia nella produzione, anche della produttività ovviamente, e nella diversificazione dell'economia. Questo quadro secondo me apre delle straordinarie possibilità per un paese come l'Italia, la cui economia è decisamente complementare a quella russa, perché abbiamo un fortissimo valore aggiunto nella tecnologia, nel know-how, nella flessibilità anche delle imprese italiane ad adattarsi sui mercati stranieri. La crisi ucraina e le collegate vicende di Crimea e Donbass sono ancora lungi dall'essere risolte e pacificate. La carta russa è piuttosto invece sempre più giocata a Washington contro il nuovo presidente Trump. Difficile quindi immaginare che le cose cambino a breve, dice Philippe Gorier, presidente di Alstom Russia e membro del board della AIB, Association of European Business in Russia. Ma ormai non fa differenza per noi, dice. Dopo 3 anni le imprese straniere russe si sono completamente adattate. Bisogna produrre in Russia, non si importa più, salvo che il lusso, ma quello è un caso a parte. Un anno fa lei mi disse che per vedere dei cambiamenti avremmo dovuto aspettare le elezioni americane, poi francesi e tedesche. Adesso come vede la situazione? Oggi penso che le sanzioni resteranno ancora a lungo, ma che a questo punto è difficile dire se per l'economia russa è meglio che vengano tolte o che rimangano. Le sanzioni hanno risvegliato alcuni settori, come ad esempio l'agricoltura. In ogni caso, non si tornerà mai alle condizioni del passato. Le sanzioni non sono più un tema. Ci interessa di più la crescita di questo paese. Le piccole e medie imprese italiane, però, non sono i big riuniti nell'Associazione Europea ed hanno tutt'altro atteggiamento, rileva Konstantin Krohin, presidente della Commissione per l'Italia della Camera di Commercio di Mosca. The relations between Italy and Russia. Le relazioni tra l'Italia e la Russia sono molto buone da un punto di vista emozionale, ma dal punto di vista dell'interscambio e della cooperazione industriale invece no. Sia in Italia che in Russia ci si aspetta per la fine dell'anno la rimozione delle sanzioni e questo rallenta molti progetti di joint venture perché nessuno vuole mettere soldi in un mercato che tornerà aperto magari nello spazio di un solo anno. Le italiane aspettare però può essere anche rischioso. Le quote di mercato che prima avevano in Russia sono già state occupate da altri nel frattempo. Ci hanno sostituiti, teme anche il professor Maurizio Dall'Occhio, docente di finanza aziendale dell'Università Bocconi ed esperto di Russia. Lo abbiamo incontrato alla Borsa di Milano per la rara presentazione di un'attività nata in Russia e sbarcata in Italia. È la Micro Capital di Vincenzo Trani, un italiano destinato a Samara dal Monte dei Paschi di Siena. È tornato anni dopo con una sua società di gestione di fondi che fornisce microcredito alle imprese, appunto la Micro Capital, che ha appena ottenuto la licenza per operare anche in Italia. La Russia per noi è stato il banco di prova su cui abbiamo elaborato un sistema di analisi del microcredito e quindi del microimprenditore che ci ha consentito di investire in modo serio, sano e con buoni risultati economici nella piccola impresa. E portare chiaramente anche un effetto sociale, non solo puramente economico, come risultato. A 3 anni dall'inizio della crisi è chiaro che per quanti ponti sono stati interrotti, quindi altrettanti ne sono stati costruiti e che dovrebbero essere altri ponti tra tutti i paesi coinvolti a sbloccare la situazione, più che nuovi posti di blocco.